da rabbia e gelosia in 4 o 5 giorni creparia. Fece pur bene andarsene in città, ma vorrei che per sempre stessi là. Viva il buon vecchio che se ne andò, viva il buon vecchio che se ne andò. Stia pur lontano, più non ritorni, che lieti i giorni così godò. Viva il buon vecchio che se ne andò, viva il buon vecchio che se ne andò. Bentrovati, miei signori, riverisco la consorte, questa ben felice sorte di poterli rivedere. Viva il buon vecchio che se ne andò, viva il buon vecchio che se ne andò, stia pur lontano più non ritorni, che lieti giorni così potrò. Ma il buon vecchio, miei signori, il buon vecchio non andò, ma il buon vecchio, miei signori, il buon vecchio non andò. Oh, che caso sfortunato, io avrebbe nominato. Dunque, il vecchio, come fu, non de cosa più gioconda che di una bella compagnia, che una tavola rotonda me la mangi in allegria, che la vuole libertà. Il buon vecchio, miei signori, il buon vecchio, eccolo qua. Oh, che caso in nuova spiegato, chi l'avrebbe indovinato? Io stupisco sempre più. Senti, femmina insolente, questa sì la pagherai. Non ti dico adesso niente, parleremo con libertà. Sarrestata, sbalordita, ma timor non mi farà. Lei, signor Marchese, devo forse far le spese. Mi faccia un gran piacere, se ne vada via di qua. Con chi parlate? Son cavaliere, perché trattate meco così? Quando ha fame sua eccellenza, doni al nostro è l'incommensa di portarle da mangiare. Ma cospetto, questo è troppo, dovrò poi precipitar. Tacete, per pietà, che ci fate palpitar? Cosa fa qua il signor conte? Servo umilissimo, ossequiosissimo, a qualche cosa, a a discrezione della casa Santa Re. Con creanza almen trattate, almen trattate, se riscaldare mi state, ve ne farò pentir. Adocete per pietade, che ci fate intimorir, che ci fate intimorir. E voi pure, che fate qua? Parlate più pianino, parlate più pianino, se domani mi verrò, se domani mi verrò. Non so stanco di soffrire. Parlate più pianino. E voi che fate qua? Parlate più pianino. Non so stanco di soffrire. Quel vecchiaccio indemoniato, indemoniato.